in primo piano. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Questa mattina partiamo dal Corriere della Sera. Ho fatto una cazzata. A parlare non è Umberto Bossi, il leader leghista che ci ha abituato all'uso di un linguaggio un po' da bar sport, ma, come riferiscono i quotidiani e in particolare il Corriere della Sera, è niente meno che Barack Obama. Sì, proprio lui, Barack Obama. La cazzata è aver indicato per la nomina a ministro della sanità un ex senatore democratico che non aveva pagato regolarmente le tasse negli anni scorsi. In campagna elettorale, ammette Obama, ho promesso di cambiare Washington in nome di una politica che parta dal basso e non voglio ora mandare agli americani il messaggio che esistano due standard, uno per i potenti e uno per la gente comune che lavora ogni giorno e paga le tasse. Così l'ex senatore democratico che doveva diventare l'equivalente del nostro ministro della sanità è stato costretto da Obama a uscire di scena e Obama ha spiegato in pubblico che un errore così cercherà di non farlo mai più utilizzando appunto un linguaggio da Umberto Bossi. Sempre sul Corriere della Sera c'è un interessante articolo spedito dal corrispondente da Londra, Fabio Cavalera. Riguarda l'episodio che ha visto contrapposti lavoratori italiani e lavoratori britannici in una raffineria della Total. L'inglese BBC annuncia un accordo in arrivo, 100 lavoratori britannici verranno assunti nella raffineria dove finora hanno lavorato soltanto operai italiani. Ma attenzione, spiega Cavalera, se l'accordo non ci sarà è già pronta una marcia su Londra. Sì, proprio così. I sindacati britannici stanno valutando se organizzare una grande marcia a Londra per difendere il lavoro dei locali, degli inglesi, dall'assalto degli stranieri. È l'ultimo atto della protesta iniziata con la rivolta contro gli operai italiani, scrive Cavalera. I British workers, i lavoratori britannici insistono e affilano le armi. Vogliamo nuove leggi e trovano alleati nel governo che è tentato dal protezionista. Gordon Brown, il premier, è in difficoltà, scrive il Corriere della Sera. Venti di protezionismo sono sottolineati anche dalla Stampa, a pagina 15 di oggi, dall'America, dove c'è una richiesta di un gruppo di senatori repubblicani che chiede fuori i tecnici stranieri dalla Microsoft. E venti di protezionismo ancora dal Regno Unito, assumere solo laureati britannici nelle aziende. La situazione economica, scrive la Stampa, impone di fare qualcosa, sostiene chi nel Regno Unito vuole solo laureati britannici nelle aziende. Dobbiamo mantenere l'impiego dei laureati britannici al livello più alto possibile, viene detto. Nelle prime pagine dei giornali di oggi, un po' tutti, dalla Stampa al Corriere, a Repubblica e agli altri, il titolo di apertura è dedicato agli incentivi per auto e lavatrici. 1000 euro per rottamare la macchina, sconto doppio se si sceglie l'ecologica, scrive Repubblica. Bonus anche per moto e furgoni, compromesso tra il ministro Tremonti, che deve tenere d'occhio i conti, e il ministro dell'Industria Scajola, che invece punta a incentivi di più ampia portata. Possibili 3 anni di bollo gratis, sconti IRPEF del 20% per mobili e frigo se si ristruttura la casa. Fiat intanto, grazie a questi annunci, decolla in borsa. Il Riformista titola Salvate la Panda, un divertente gioco di parola, e l'altro argomento del giorno è quello che ha visto in Lazio scoppiare lo scandalo sanità. Agli arresti Angelucci, Giampaolo Angelucci, re delle cliniche a Roma, e agli arresti domiciliare in una inchiesta che coinvolge altre 12 persone. La Stampa dedica un'intera pagina a ricostruire favori e amici potenti dell'ex portantino di Roma, che è partito lavorando all'ospedale San Camillo e facendo il sindacalista nelle file della UIL. Poi di strada ne ha fatta tanta, scoprendo il grande business della riabilitazione. Una fitta rete di relazioni, spiega la stampa, da Sposetti, il politico dei DS che tiene le chiavi della cassa, ad Alema, da Forza Italia ad Alleanza Nazionale. Soldi ai giornali in difficoltà, scrive la stampa, ma anche un intervento nel salvataggio di Alitalia. Una interessante testimonianza è proprio quella di Sposetti, l'ex tesoriere dei DS. Grazie a quella famiglia, ricorda oggi, risanai i conti del partito. Sposetti poi aggiunge: Giampaolo Angelucci, un amico, dall'acquisto del bottegone al tentativo di prendere il quotidiano L'Unità. È molto divertente l'ironia di Feltri, Vittorio Feltri, direttore di Libero, che a pagina 14 di Repubblica racconta: da Tassandina a Berlusconi Junior mi arrestano sempre l'editore. Dice Feltri: ho cominciato bene con il Corriere della Sera negli anni di Tassandin e Angelo Rizzoli. Poi gli viene un dubbio mentre racconta le altre circostanze in cui i suoi editori sono stati coinvolti in vicende giudiziarie. Non sarò mica io che porto sfiga, dice Feltri. Dopo l'esperienza del Corriere della Sera sono stato all'Indipendente e dopo 4 mesi mi hanno blindato l'amministratore delegato, di cui non ricordo oggi neppure il nome. Sono passato al Giornale e lì, dopo 3 mesi, ricorda ancora Feltri, hanno arrestato Paolo Berlusconi. Poi sono stato un anno al Carlino della Nazione e, siccome non arrestavano nessuno, mi sono annoiato e me ne sono andato, fondando Libero. Lì c'è stato quasi subito il suicidio di uno degli imprenditori azionisti, tal Patacconi, che era uno dei principali soci. Poi sono arrivati gli Angelucci e nel 2006 Giampaolo finisce agli arresti domiciliari. Insomma, nella mia vita a me non è capitato altro. Scherzi a parte, nell'editoriale di Libero Feltri è meno ironico e va alla sostanza della questione. Il titolo a tutta pagina è: obiettivo zittire Libero. Scrive Feltri: non sono in grado di dare giudizi neppure approssimativi sulle accuse rivolte a Giampaolo Angelucci. Lo considero un amico e sono addolorato di quanto sta accadendo. Ho il sospetto non abbia combinato nulla di illecito e la sensazione che riuscirà a dimostrarlo. Secondo l'accusa, dice Feltri, non scherzando per niente, Giampaolo e il papà Antonio avrebbero fatto delle pressioni su di me per ottenere favori. Premesso che, se possibile e non in contrasto con la mia dignità, concedo favori a chiunque, così come ne chiedo senza per questo sentirmi vittima di pressioni che non ho mai subito in alcun quotidiano, bene, premesso questo, ribadisco che Libero l'ho fondato nel 2000, 9 anni or sono, proprio per sperimentare una formula di giornalismo nuova, disinibita, direi sfrontata, inattaccabile dai palazzi del potere politico e finanziario. Al caso Eluana sono invece dedicate altre pagine dei quotidiani, nonostante l'invito al silenzio del papà di Eluana. Una dichiarazione è quella di Umberto Bossi: come padre io non avrei il coraggio, titola in un box di pagina 4 la stampa. Dice Bossi: certo, tutto dipende, se non tutto, dalla fede e dalla speranza che ha un padre. Magari aspetta un miracolo del Signore, oppure aspetta che tra un anno esca un farmaco. Molto, molto interessante, perché induce a qualche riflessione sulle reazioni dei cattolici di fronte al caso Englaro. È una testimonianza, sempre a pagina 4 della stampa, è un'intervista piuttosto lunga, è di Monsignor Giuseppe Casale, arcivescovo, che parla dalla Città del Vaticano, per una volta una voce cattolica che la canta diversamente rispetto al caso Englaro. Lasciamola morire in pace, dice, come facemmo sulla base delle indicazioni date da Giovanni Paolo II. Mi sento vicinissimo a Papa Peppino, è l'accurata testimonianza dell'arcivescovo. Quella di Eluana non è più vita, porre termine al suo calvario è un atto di misericordia. Non è tollerabile accanirsi ancora né proseguire lo stucchevole can-can che viene fatto intorno a questo caso. C'è poco da dire, l'alimentazione e l'idratazione artificiali sono assimilabili a trattamenti medici e se una cura non porta alcun beneficio può essere legittimamente interrotta. Si è creato intorno al caso Eluana un clima sbagliato agitando lo spettro dell'eutanasia, ma qui non si tratta di eutanasia. Dovremo smettere di agitarci contro i mulini a vento e chiederci se quella della Englaro sia realmente vita. Una vita senza relazioni, alimentata artificialmente, non è vita. Come cattolici dovremo interrompere tutto questo clamore. I trattamenti medici a cui è stata sottoposta non possono prolungarle una vera vita, ma solo un calvario disumano, dice l'arcivescovo e conclude: l'alimentazione artificiale è accanimento terapeutico, se la si interrompe e Luana muore. Rispettiamo le sue ultime volontà e non lasciamo solo quel padre che, appena si saranno spenti i riflettori di questa attenzione parossistica, sarà in compagnia esclusiva del suo dolore. Io lo comprendo, prego per lui, gli sono vicino. È la sua un po' commovente intervista. Il Messaggero a pagina 26 svela finalmente un piccolo mistero, quello legato alla presenza della cantante Mina al Festival di Sanremo di quest'anno. Il brano è nuovo, titola Il Messaggero, ma le immagini sono vecchie. A sgombrare la strada da ogni equivoco ci ha pensato Massimiliano Pani, figlio factotum di Mina, la celebre mamma a Sanremo. Non si concederà altro che con un brano, una sorta di anteprima del disco che uscirà il 20 febbraio, un assaggio soltanto vocale a cui sarà la RAI a offrire un corredo di immagini. Insomma, nessuna novità, nessuno scoop epocale. Mina utilizzerà la platea festivaliera per lanciare il suo album e nulla di più. Una stoccata al premier Berlusconi è quella che si concede a pagina 15 di Repubblica Soru, candidato per il Partito Democratico alla carica di presidente della regione sarda. Alla sua età, dice Soru, riferendosi a Berlusconi, si dovrebbe essere più saggi. Invece si comporta come Caligola. Insomma, un botto e risposta durissimo, quasi quotidiano, tra Soru e Berlusconi. Sempre su Repubblica, due pagine dopo, a pagina 17, un titolo: la Coop non venda prodotti israeliani. Lo chiede una lettera di soci pisani delle Coop, ma l'azienda si dissocia, i nostri clienti possono scegliere, dice. Sulla pagina su un'intera pagina del Corriere della Sera si trova un interessante servizio dedicato a Google. Con Google è possibile svelare dove ti trovi. Insomma, attraverso una connessione tra cellulari e internet, amici e parenti possono sapere in tempo reale ogni spostamento, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Si chiama Google Latitude e servono per questo nell'ordine tre cose, scrive il Corriere: un cellulare, un dispositivo wireless, cioè senza fili, compatibili, ma funziona anche dal computer di casa, una connessione internet e un account su Gmail. Una volta attivato il sistema, attraverso il telefonino, un software elaborato dai computer permetterà di tracciare i vostri spostamenti. Insomma, è possibile cambiare la vita di tutti noi, ma è possibile anche il depistaggio, come spiega il Corriere della Sera. Una opzione mascheratura salva tutti, salva soprattutto tradimenti e anche i figli, che potranno essere più tranquilli. È possibile infatti far risultare una località diversa da quella in cui si è effettivamente. Sulla Stampa, Colaninno esce allo scoperto con dichiarazioni secche contro Malpensa. Io non volo da Malpensa, titola La Stampa, preferisco Francoforte. La Lega Nord risponde, ci sta provocando. Di sicuro nelle ultime settimane lo scalo di Malpensa ha perso il 20% dei passeggeri. È il resoconto dell'audizione tenuta ieri dal presidente Roberto Colaninno sulla nuova Alitalia in Parlamento. Una notizia esclusiva apre invece la prima pagina di Finanza e Mercati sul Sole 24 Ore. Molto interessante. Il titolo è: la Borsa di Londra vuole un ex della Lehman Brothers al vertice, ma la ragione vera di questo interesse è che è stata tradita la borsa italiana, quella che nei mesi scorsi ha fatto un accordo con la Borsa di Londra. L'accordo prevedeva che la sostituzione di Clara Furs, il numero uno della nuova holding che raggruppa Londra e Milano, fosse l'amministratore, l'ex amministratore delegato della Borsa italiana e ora suo vice, Massimo Capuano. Ma non andrà così. Per l'Italia, scrive il Sole 24 Ore, sfuma l'occasione di collocarsi alla guida operativa di un'istituzione britannica di grande prestigio, quella alleata alla Borsa SPA. Vedremo, conclude il Sole 24 Ore, cosa saprà combinare il prescelto. Il prescelto si chiama Xavier Rolet ed è appunto l'ex numero uno in Francia della fallita Lehman Brothers. Insomma, per gli italiani, per l'Italia, è davvero uno smacco. L'editoriale del Sole 24 Ore di oggi è affidato alla firma, sempre di grande interesse, di Marco Onada. Scrive: la bad bank nazionale tedesca e la minaccia protezionista. Tra rumor, preannunci e frenate, la Germania sembra più decisamente orientata alla bad company come soluzione ai gravi problemi delle sue banche. Il piano di ben 500 miliardi varato a tamburo battente a fine 2008 non sembra infatti più sufficiente e Berlino pare attratto dalla soluzione di moda. È quella che ricorda Onada, quella che, secondo i pronostici, sarà adottato anche dall'amministrazione Obama negli Stati Uniti. Il modello prevede che uno o più veicoli comprino dalle banche le attività che ormai vengono definite come tossiche e ripuliscano finalmente i loro bilanci. Per la Germania è una scelta suggerita dallo stato disastroso di Deutsche Bank, di Commerzbank e di Dresdner Bank. Conclude Onada: le banche, quelle che erano il fiore all'occhiello del modello renano dell'azienda Germania, hanno problemi molto seri e il cancelliere Angela Merkel ha deciso di intervenire. Ma questo intervento, scrive Onada, è in ritardo e viene fatto con uno strumento probabilmente insufficiente alla gravità della situazione. Per di più, la Germania, pilastro dell'Unione Europea, rischia di sancire l'inevitabilità dei salvataggi in ordine sparso. Una pagina del quotidiano La Stampa racconta invece le vicende di Al Qaeda in Algeria, decimata dalla peste, titola il quotidiano torinese. I militanti di Al Qaeda forse uccisi dalle loro armi batteriologiche. Sul Manifesto, a pagina 20, una inchiesta su come stanno vivendo le hostess della nuova Alitalia l'arrivo al vertice dell'azienda della CAI. Stop al servizio navetta per rientrare a casa, stipendi ridotti anche di 650 euro. E quando da Roma si atterra a New York, tutti in un albergo, circondati dal nulla e da qualche mega centro commerciale. Un accanimento così non l'avevo mai visto, racconta la hostess Francesca. Prima ci hanno definito materiale umano a basso costo e poi ci hanno mandato una mail di benvenuto scrivendo che dobbiamo avere un'attenzione spasmodica al cliente. Intanto ho dovuto pagare 60 euro per certificare di non avere carichi pendenti quando i proprietari di CAI sono plurinquisiti. L'argomento della privacy violata è affrontato invece un po' da tutti i giornali, perché la notizia è il fatto che Genchi, il vicequestore palermitano che indagava per conto dell'ex procuratore di Catanzaro, De Magistris, è stato indagato a Roma. L'inchiesta è per abuso d'ufficio, notizie sulle telefonate acquisite da elenchi inusuali. interessante la testimonianza di Luca Fazzo, in passato giornalista di Repubblica e attualmente invece passato al Giornale. Racconta del suo telefono messo sotto controllo e di tutti quelli che con lui sono stati messi sotto tiro, da Rosemary, la sua indispensabile colfa, come la definisce, a Don Pucci, il prete di quando ero bambino, fino a Marcello C, grande rugbista e grande mio amico, come pure mia amica Ilaria, che lavora a Mediaset. Insomma, un'intera società messa sotto controllo da Genchi. La Stampa affida in chiusura, mi piace ricordarlo perché è sempre di lettura divertente, un'intera pagina di servizio che racconta una dynasty nel nome della Mondadori. Lui è Giuseppe Frascara Gazzoni, erede dell'impero dell'idrolitina. Lei è l'assai dinamica e coinvolgente Catherine Price, sposata Mondadori, una signora di stile minimal raffinato che è stata la moglie dell'editore Leonardo Forneron. Bene, la rassegna stampa è finita e si conclude qui. L'appuntamento è per domani alle 7:30.